Radio 24 Reportage. Un portoghese sul Tevere di Daniela Binello. Italy and Holland. Well, perhaps we need to look at the photo because there were three in a line. Well, that was an extraordinary. Nel 2004 i giochi di Atene, gli azzurri del 4 senza di canottaggio conquistarono la medaglia di bronzo. Il remo non deve affondare assolutamente, la pala invece, che è l'ultima parte del remo, deve stare a pelo, perché più si affonda più si sente la pesantezza e quindi non va bene. Invece noi abbiamo questo carrello movibile, a differenza della canoa, a differenza di tutti gli altri sport, abbiamo queste rotelline sotto il carrello che ci permette di usare al 100% le gambe. Facciamo un balzo indietro e tiriamo i remi con le braccia e col corpo. Cerco di fare più chilometri possibili senza girare, da Ponte Milvio fino all'isola Tiberina. Di più non si può, perché da Ponte Milvio ci sono una specie di cascatine, di sassi in mezzo al fiume che fanno in modo di essere non praticabile. All'isola Tiberina, perché se capitandoci sopra possiamo benissimo vedere, ci sono proprio delle cascate alte anche 2-3 metri, quindi è impossibile da navigare. Da bambino ero un po' cicciottello, mi piacevano tanto i magnifici panini col salame, quindi appunto perché ero cicciottello, perché non c'avevo niente da fare, mangiavo solo sti panini, ho deciso di fare il canottaggio. Infatti subito dopo qualche mese dimagrì, iniziai a vedere allo specchio un fisico carino, e perché comunque il canottaggio è uno sport completo, veramente al pari del nuoto, se non meglio, come esecuzione muscolare. Noi lavoriamo dai muscoli del collo fino alle dita dei piedi, completamente, braccia, schiena, addominali, tutto. Fortunatamente la mia vita si incontrò con Gianni Battistoni, che era il presidente del Circolo Granotti di Roma in quel periodo. Lui mi propose di assumermi come dipendente del circolo e di continuare quindi l'attività agonistica con i colori giallorossi. È stata una mia seconda casa questa qui. Ed è stata veramente una mossa ben fatta, perché poi portai l'Olimpiade, la medaglia olimpica a casa e diversi titoli mondiali. Come si divide il tuo cuore? Tu sei di origine portoghese, hai anche fatto parte della nazionale portoghese di canottaggio, però sei anche cittadino italiano e gareggi per l'Italia. Come ti dividi, per esempio, quando ci sono i mondiali? Beh, guarda, l'unica cosa che tifo per il Portogallo è il calcio, perché non lo so, è proprio la passione per il calcio portoghese mi ha sempre attirato. I miei genitori sono portoghesi, i miei fratelli sono portoghesi, i miei parenti sono tutti portoghesi. Io sono l'unico della famiglia a essere italiano, quindi comunque io, dopo tanti anni che sono in Italia, mi ritengo più italiano che portoghese. Bruno Mascarenhas ha anche scritto la sua storia in un libro appena pubblicato da Sera Arcangeli, 5 cerchi olimpici, un sogno possibile. Ma il sogno di conquistare nuove medaglie azzurre non è affatto finito, e Bruno si allena quotidianamente sul Tevere pensando ai giochi di Londra del 2012. Ci sono tantissimi punti in cui mi piace riposare, mi piace osservare, anche ascoltare i rumori proprio della città, perché qui siamo sotto Roma una 15-20 metri, e allora tutti questi rumori, clacson che sentiamo di solito mentre siamo nel traffico qui sotto, si sentono a malapena. Poi ci sono questi spazi di ombra sotto questi enormi alberi verdi, che dove posso sempre osservare qualche animale oppure proprio prendere un pochino di ombra in queste giornate caldissime. Proprio stamattina, mentre facevo allenamento in barca, una carpa di almeno 4 kg mi è saltata sul remo. Cioè, comunque possiamo vedere tantissime specie di animali e di vegetazione. Intanto si avvicinano sul motoscafo l'allenatore Luca Migliaccio e Mario Sartini, 8 volte campione di canottaggio. Gli stranieri farebbero carte false per navigare il fiume in barca, come facciamo noi? Alle curve si scopre, girando da Ponte Cavour, prima c'ha la visione di Castel Sant'Angelo, di qua la parte antica di Roma, e poi il Vaticano. È una cosa che veramente prende. cioè una visione dal basso sotto i ponti è particolarissima, cosa che gli altri non godono, ma bisogna stare in barca, bisogna remare per questo. È una Roma impostata sull'amicizia, sul tu, sulla fratellanza, è molto bello. Purtroppo la cosa che non possiamo godere è le fresche acque del Tevere d'estate col maggior caldo, sono sempre gelide, dunque sono stupende. Il fatto che l'inquinamento oramai da molti anni ce lo vieta. È la zona montana alle spalle del Tevere che porta questa ricchezza di acqua fresca, è l'inquinamento che non ci fa fare più il bagno. Ma comunque fino a una volta si faceva. Qualche volta lo facciamo per gioco, noi ci si butta. Bisogna poi lavarsi bene subito dopo. Ma sì, sì, si può fare con molta saggezza. Finito il riscaldamento, ragazzi! L'allenatore della canottiera di Roma è Luca Migliaccio. Ok, finitelo! Palatura gli va. Ci metto di più a fare riscaldamento e il lavoro, eh? È bello, lo sto facendo fare Bruno perché devono imparare a fare il riscaldamento, è importante. Allora metà del riscaldamento, i 10-12 minuti a voga tranquilla, quelli sempre, poi un 20, 5 di recupero, un 30 e una partenza, dopodiché iniziamo a fare il lavoro di oggi. Tu come ti chiami? Giulio. Quanti anni hai? 14. Il canottaggio perché con questo caldo, le zanzare? Ah, perché ci stanno le sofferenze. Ma alla fine comunque è bello, cioè ti rilassa, anche se è faticoso, ti rilassa pure dopo scuola, andare ad allenarsi all'aria aperta, è bello. Come ti sembra questo Tevere? Ma all'inizio, vabbè, sì, faceva un po' schifo l'acqua così, poi pian piano non fa più schifo. Cioè anche le cose peggiori alla fine ci si abitua. Sì. Giordano, ha 12 anni. Io l'ho scelto perché è stato consigliato da mio cugino, poi ho fatto il primo anno, poi quest'anno ho iniziato a fare a livello agonistico. Poi mi piace perché è bello stare a contatto con la natura, anche se l'acqua è sporca, però ci divertiamo, è divertente se fare canottaggio perché stiamo con gli amici. Poi ci stanno un sacco di uccelli, i gabbiani, i pesci, e ci stanno le nutrie e i topi. E si distinguono le nutrie dai topi? Sì, perché sono molto più grandi le nutrie. La terza vittima, Patrizio, vieni qua. Patrizio è la new entry, un grande ragazzo che vede da Riccardo Cocciante, però... Patrizio, 14. Cioè io prima non avevo mai pensato di fare il canottaggio, però un giorno durante l'ora di ginnastica è arrivato il mio ex allenatore Federico Fina che mi ha fatto provare a fare remergometro. Io poi ho provato, mi è piaciuto, adesso sto continuando. Il remergometro, o in inglese l'indoor rowing, è un attrezzo inventato nelle palestre, utilizzato poi dalla nazionale italiana di canottaggio per fare allenamento quando il meteo non ci permette di uscire in barca. Il mio nome è Michele Petracci e sono l'allenatore dei cadetti e gli allievi del Canottiera di Roma. Abbiamo vinto già due titoli italiani e probabilmente andremo avanti. I genitori sono molto contenti perché comunque il canottaggio è sacrificio, però è anche insomma un modo per impiegare il pomeriggio in maniera diversa dalla PlayStation, dai soliti giochi, oppure anche un modo per toglierli dalla strada. Però non ci sono le ragazze. Diciamo che il canottaggio è uno sport prevalentemente maschile, anche se negli ultimi anni c'è un grande incremento anche a livello femminile, soprattutto nella nazionale, ci sono state delle medaglie che prima diciamo potevamo solamente sognare. Però certamente è uno sport maschile, anche perché viene fatto all'interno di circoli sportivi che fino a poco tempo fa erano riservati solamente a soci maschi, ecco. Un'altra cosa, ad esempio, è che il Tevere allontana un po' tutti e se i maschietti diciamo sono più intrigati a venire in questo fiume, diciamo invece le femmine si tengono un po' più alla lontana. Anche se poi anche i ragazzi ancora non ne sono molto consapevoli, ma il fiume non è così sporco, sono state fatte delle opere di bonifica negli ultimi anni, il Tevere è molto più pulito, si vedono degli animali che prima non si vedevano come i roni cenerini, i cormorani, i germani reali. Però i romani non lo amano particolarmente il Tevere. Ma diciamo che i romani al di fuori dei circoli non lo amano, ma poi quando ci entrano e vengono con i loro ragazzi a vedere se ne innamorano. Ma queste canne sono nate spontaneamente queste o canne, sono venute no, giù dalla collina? Canne, queste qui sono proprio arbusti, quindi alberi, pioppi, che sono tracimati giù nel Tevere e sono rimasti qua. Ci avevano promesso che ce l'avrebbero levati e portati via, anche qui ci sono questi drammi che sono pericolosissimi, molte barche ci vanno a urtare. Cioè, detto proprio in maniera molto sincera, non è curato. Questa è la carpenteria, una stanza con un sacco di attrezzi, di viti, di dadi, di varie cose per dipingere, pistole elettriche. Dato che andiamo all'indietro, come i gamberi, come i granchi, adesso non so chi sono tra i due, si fanno molti incidenti, e allora ci deve essere sempre il carpentiere che sistema le imbarcazioni per permettere poi all'atleta di tornare presto in barca. Non sia timido, Rosario. Che cosa le combinano questi ragazzi su queste barche? Le bucano, quando danno le botte su che prendono i rami, tronchi, e soprattutto quando le mettono a posto. Quindi lei cosa deve mettere? Una pezza? Sì, poi io le resino e le stucco e poi le vernicio. Come un piccolo cantiere navale, attrezzato di tutto? Sì, tutto attrezzato e normale manutenzione bisogna fare.